Una littorina attraversa la campagna tra capaci e cinisi. Binario unico. Intorno è notte fonda. All'interno del treno passeggeri mezzi addormentati. All'improvviso il fracasso di 100 mazze di ferro impazzite che sbattono contro 100 incudini. È il treno che si impenna in un salto sui binari. Il treno però non deraglia e il macchinista riesce a fermarlo poco più avanti. Un attimo dopo il ferroviere cammina a ritroso lungo la massicciata, fino al punto in cui l'automotrice si era impennata. Ai finestrini i pochi passeggeri lo seguono con lo sguardo e, nel buio, lo vedono mettersi le mani nei capelli. Il ferroviere sale di nuovo sul treno, ma porta avanti la littorina lenta per pochi metri ancora, 500 sì o no, fino al casello, dove c'è un collega, un guardiano, che non può non aver sentito nulla. Madre santissima, una bomba fu, può essere mai che tu non sentissi nulla. Che vuoi? Ho il sonno pesante. Il sonno pesante, come una montagna. Il paese di questa storia si trova proprio all'inizio del golfo di Castellammare. Da una parte del golfo la riserva dello Zingaro e dall'altra parte Terrasini e poi Cinisi. Davanti ha il mare. E dietro la montagna. C'è una strada che sale dritta, supera la ferrovia e continua a salire fin quando la montagna è proprio sopra di te, che sembra che voglia schiacciarti. Il profilo di quella montagna ricorda un cane addormentato. Pare che la città di Cinisi prenda il nome proprio dal grande cane di roccia che la sovrasta. Cinisi è sdraiata sotto la sua pancia, attaccata alle sue mammelle, addormentata. Addormentata da tempo. Mentre viene battuta dai venti che si insinuano tra le fenditure del grande cane di roccia. Questa è la terra del Windshear, una corrente che sbatte a terra il muso degli aerei mentre stanno per prendere il volo. Alla fine del golfo di Castellammare c'è Punta Raisi, il luogo ideale per costruire un aeroporto. È diversa questa terra in autunno, l'aria è pungente. Quando ero più giovane, verso la fine agosto, sentivo che il tempo cominciava a cambiare. Percepivo l'avvicinarsi del giorno della mia partenza, come se al paese la mia presenza cominciasse quasi a dare fastidio. Non parlo delle persone, mi riferisco al paese stesso. Sentivo che tutto stava per entrare in una stagione diversa. Fra poco noi, che eravamo ritornati, saremmo dovuti risalire sul treno. E così, eccomi. Dopo tanti anni a Terrasini. E al numero 118 della Via Corsa, la casa da dove trasmettevamo Radio Out, 98.800 MHz, giornale di controinformazione. Era da qui che noi compagni, insieme a Peppino Impastato, lottavamo contro la mafia. La casa è diversa. Si fa fatica a riconoscerla. E allora mi fermo, cerco di ascoltare il vento libero della nostra terra. E se lo ascolti il vento, riesci forse ancora a sentire le nostre parole. Sono arrivati pazzi, sono pazzi questi. No, i pazzi sono quelli che stanno fuori, come si dice. Sì. Ma fuori dalla sala trasmissione o fuori da qualcos'altro? Fuori, dappertutto, fuori. Sì, stanno fuori, in democraticamente in libertà. Diciamo. I pazzi sono out. Allora. E stasera non è solo onda pazza, ma è Maroso Voite. E c'è una grossa mareggiata. È cretina commedia. Ma no. Come cretina? Eh sì, cretina commedia. Adesso vedrai, adesso vedremo un po' tutti. Tutto va bene, c'è la salute, tutto va bene, siamo tutti amici. Dagli studi di Radio Auto avete il piacere di ascoltare la cretina commedia, recitatore, interprete Vittorio Katzmann. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura quella minchia selvaggia ed aspra e forte che troneggiava in mezzo alla radura. Scendemmo ancora per un altro lato, dove c'eran coloro che nella bocca puzzano per i culi che hanno leccato. E il mio maestro: volgiti, che fai? Vedi là maniaco che s'è desto? Dalla cintola in su tutto il vedrai. Oh, tu che di Mafiopoli sei il vice, gli dissi, che ci fai in questo loco? Lasciami stare, triste, egli mi dice, qui son dannato a soffrir di tifo, tentai di spostare il campo sportivo e ora tutti mi dicono che schifo. Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per profession l'inganna popoli. E c'era Don Peppino Percialino, artista di intrallazzi e di montagne, che annusava un po' di cocaino. Sì, di cocaino, come si dice, sniffava. Ma no, no, no, non pisciava, non cacava. Oddio, non si sa se pisciava o cacava, se grugniva o sparava, gridava. Ma no, no, non gridava così, gridava: son sempre un galantuomo, amico degli amici e di Pantofo, presiedo una congrega, Lecce Homo, e adesso nel mio cul tengo un carciofo. E più avanti vedrai il grande onorevole Pantofo, che ha deciso l'abbandono senza però ottenere alcun perdono. Difatti egli sta in piedi su una palla e mentre un cane lo addenta, mentre un cane lo addenta, è costretto a inculare una cavalla. Sì, sì, sì, per chi non lo sapesse, si tratta della viva voce del cane dell'onorevole. Ci siamo recati con una nostra troupe di tecnici a chiedere, a registrarla e a chiedere informazioni sul suo padrone, che a quanto pare da molto tempo non si vede in giro, che a quanto pare, o meglio, che a quanto si dice, ha abbandonato la vita pubblica. A quanto si dice sempre, non sarà presente neppure alle prossime competizioni elettorali. Molti sostengono per far largo ai giovani. Almeno così ci ha detto il suo cane, ascoltate, ci sta dicendo proprio questo. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. La prima volta che entrando ad Alcamo ho letto questa frase di Borsellino scritta su un muro, ho sorriso. Sì, mi sono sentita meno sola. Poi però, passandoci altre volte, leggendo sempre quella stessa frase, mi sono resa conto che mi feriva dentro. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola, chi non ha paura di morire muore una volta sola, chi non ha paura. La paura ti viene quando il vento si ferma e cominci a sentire le voci che ti circondano. Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Au zu, au don, ci va portato rispetto. Stiamo attenti, cerchiamo di fare li bravi. Veritica, unni ce viti li peri, vi ci mettiamo la testa. Oviri, a chi sto l'ammazzaro? Meglio l'asro che fami. Lo pasroni, apposta e pasroni. Picchi con lo torto, avi ragioni. Obbedire al pensiero del tempo era come morire. Alcuni morivano dentro che erano ancora bambini. Alcuni, per non sentire più quelle voci, se ne sono andati via, lontano. Altri, invece, si sono accorti che la loro voglia di libertà gridava ancora più forte, così forte da coprirle quelle voci. Così forte può essere quella voglia di libertà da superare anche la paura. Perché quando la paura è troppa, allora una persona non ha più paura di niente. E venne a noi un adolescente, dagli occhi trasparenti e dalle labbra carnose, alla nostra giovinezza, consunta nel paese nei bordelli. Non disse una parola. Non disse una parola. Né fece gesto alcuno. E questo suo silenzio e questa sua immobilità hanno aperto una ferita mortale nella nostra consunta giovinezza. Nessuno ci vendicherà. La nostra pena non ha testimoni. You think you can tell heaven from hell. Arrivai alla politica nel lontano novembre del 65 su basi puramente emozionali. La mia condizione familiare era divenuta insostenibile. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, aveva concentrato tutti i suoi sforzi fin dalla mia nascita nel tentativo di impormi le sue scelte, il suo codice comportamentale. È riuscito a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva. Approdai al Tsiup con la rabbia e la disperazione di chi vuole rompere tutto e contemporaneamente cerca protezione. Fondammo un giornale, l'Idea Socialista. Finimmo subito in tribunale. Lasciai il Tsiup 2 anni dopo. Lo lasciammo tutti, quando venne sciolta da autorità l'intera federazione giovanile. Erano gli anni della rivoluzione culturale, del CE. Il 68 mi prese quasi alla sprovvista. Partecipai disordinatamente alle lotte studentesche, alle prime occupazioni, poi l'adesione, ancora una volta su un piano più emozionale che politico, alle tesi di uno dei tanti gruppi marxisti-leninisti, la Lega. E poi le lotte di Punta Raisi e lo straordinario movimento di massa che si è riusciti a costruirvi attorno. Autunno del 72. Inizia la sua attività a Palermo il Circolo Ottobre. Vi aderisco e do il mio contributo. Mi avvicino a Lotta Continua e conosco Mauro Rostagno. È un episodio centrale della mia vita. Lui mi dà garanzie e sicurezza. Aderisco a Lotta Continua nell'estate del 73. Nel 1975 organizzo il Circolo Musica e Cultura e diventa il punto di riferimento per i giovani di Cinisi. All'interno del circolo nascono anche il collettivo femminista e il collettivo antinucleare. Nel 1977, insieme ad alcuni compagni, creiamo Radio Out, giornale di controinformazione. Quando il vento si ferma, ad esserne capaci, si possono sentire degli spari lontani. Delle esplosioni. Lo zio di Peppino, Don Cesare Manzella, il numero uno di Cosa Nostra, viene fatto saltare in aria con la prima autobomba nella storia della mafia. Peppino ha 15 anni e qualcosa cambia dentro di lui. Lui che la mafia ce l'ha in casa, lui che quando attacca la mafia di Cinisi, attacca suo padre e la sua famiglia. Chi brogna pa famiglia! Mischino, viriti chiavi a soffrire un povero pasri. Sti sfardati chi lo portano sulla cattiva strada. Tuo pasri è malato, non si può pigliare i dispiaceri. Se ci succede qualche cosa, la colpa è tua. Se fosse figlio mio, facessi un fosso e ce lo voricassi. Se fosse figlio mio, farei un fosso e ce lo butterei dentro. Così dice lo zio al papà di Peppino. Sua mamma, Felicia, va contro il marito per proteggere il figlio. Ma il padre lo caccia di casa. Ma Peppino resiste. Peppino continua. Tutti noi continuiamo insieme a lui. Signori miei, sentite, sentite! Accorrete, accorrete, signori! Per voi, oggi, direttamente dalla piazza di Cinisi, un grandioso spettacolo con Peppino Pantalone e Laura Ballanzone! Signore e signori, benvenuti a Cinisi. Bedu paese? No. Paese turistico? Bedu. Ah, Bedu! No, Beddu. Beddu. No, Bettu. Bettu. Bettu. Beh, insomma, Bettu. Dai, andiamo avanti su. Ma sì, bello paese, coi rubinetti a secco e i pozzi salati con dentro l'acqua della mafia. Signore, c'è l'acqua nel mio terreno, posso usarla? Potete usarla, ma c'è acqua vostra. Ah, allora posso darla pure al vicino, che per me è tanta. Ma c'è acqua vostra? Ma perché ne volete dare al vicino? Perché? Perché l'acqua mia puzza! Ma scusate, signori, ma non c'è per questo mare cristallino, per la purezza dell'acqua che il nostro beddu paese si è stato considerato paese turistico. Sì, paese turistico, con processioni fino al mare, ma mica processioni di persone, processioni di monnezza, ma ci avemo le turiste davanti alla chiesa con le cosce de fuori. Non siete contento? Beh, signore sotto il sole, carne fresca per sto paese, carne fresca in esposizione, ciò. Sì, sì, carne, carne, carne. Carne fresca davanti, ma la carne di dietro. Ma che po', che ma po'. Tutti questi turisti, i se tutti americani, i vin qua con gli elicotteri a due pale, a tre pale, quattro pale, cinque pale, le abbiamo visti, gli elicotteri con le pale, quelli che volano sopra Punta Raisi, grossi elicotteri USA, di quelli già visti e rivisti, visti e rivisti, visti e rivisti, ancora mille volte nei documentari sul Vietnam. Punta Raisi, scalo per le operazioni della sesta flotta NATO, Punta Raisi! Una grande distesa di cemento, 6 chilometri di costa espropriati e recintati. Poi, scelta voluta, scelta voluta. Lo sai perché? No. Adesso che Punta Raisi è di cemento e non ci sta più la campagna, abbiamo risolto il problema dell'acqua per irrigare! Venite, venite! Accurriti, accurriti! In una grande tensione, il corteo sfida senza incidenti per le strade di Bologna. Non è volato uno spiglio. Diranno lunedì 26 settembre della prima importante iniziativa di studenti bolognesi. Bologna, 11 marzo 77. Muore durante gli scontri tra studenti e polizia Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. I disordini proseguono tutta la notte e il giorno dopo. Radio Alice, una emittente dell'ultrasinistra, manda in onda le telefonate dei militanti che da vari punti della città riferiscono sullo svolgersi degli incidenti. Compagni, per favore, che ci sentono, che si mettono immediatamente in comunicazione con gli avvocati. 11 marzo 1977, Bologna. Durissimi scontri tra studenti e forze dell'ordine nella zona universitaria. I manifestanti erigono barricate e la città resta in stato d'assedio per 3 giorni, finché il ministro dell'interno Cossiga invia in città i carri armati. Ancora una volta gli assassini di Francesco Lorusso rimangono impuniti e nessuno può protestare contro questa morte. Nel pomeriggio 4.000 compagni all'università vengono caricati dalla polizia mentre si teneva un'assemblea. Anche qui fino a sera tardi gli scontri continuano. Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23.15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili e pistole che interrompono qualsiasi tipo di comunicazione sui fatti che stavano accadendo in giro per la città. Alice? Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate. Ecco, su questa parte sto tappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato. 12 maggio 1977, Roma. Il Partito Radicale organizza un sit-in a Piazza Navona per celebrare l'anniversario del referendum sul divorzio del 1974. Nonostante il divieto di manifestare imposto dal ministro dell'interno Cossiga dopo la morte dell'agente Passamonti, la polizia interviene sparando colpi di pistola. Sul ponte Garibaldi muore la studentessa Giorgiana Masi. Ancora duri scontri ieri a Roma. Uccisa una ragazza di 19 anni. Anche da questo angolo invece agenti in borghese sparavano ripetutamente colpi di pistola. Tengo a precisare che dalla parte dei votanti non si è mai sparato nessun colpo di pistola. La questura di Roma precisa che le forze di polizia impegnate nella circostanza non fecero uso di armi da fuoco, salvo che le messi per il lancio di canterotti lacrimogeni. Il 29 settembre 1977, Roma. A Piazza Igea, da un'auto, vengono sparati 5 colpi di pistola contro un gruppo di giovani di sinistra. Elena Pacinelli, 19 anni, viene colpita da 3 proiettili. Il giorno dopo, i compagni di Elena distribuiscono un volantino di protesta nel quartiere della Balduina. Durante il volantinaggio, il militante di Lotta Continua, Walter Rossi, viene ucciso a colpi di pistola da un gruppo di neofascisti, lasciati agire indisturbati dalla polizia. Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. L'inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Cioè, da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da cinque agenti, sarebbero tutti morti. A risentirci più tardi. Attia! Onna stai enno? Talè! Che bella picciotta! Vuole un passaggio? No, grazie. Sì, un passaggio su sta minchia! Onde stai enno? Vado al circolo musica e cultura. Ah, la signorina va al circolo musica e cultura. Lasciami passare. Allora è vero che ve lo volevate sucare tutto voi, questo coccio da mano. Lasciami passare, ho detto. Ma come? Il circolo musica e cultura è dove si fanno le ogge. Non mi toccare. Ma sì, forza che lo vuole un passaggio. Facciamo fare anche noi un po' di cultura. Non mi toccare, forza che ci divertiamo. Lasciami un pochino. Lasciami. Ma sì, lasciami stare, non mi toccare. Brava, lasciami. brava, scappa. Lasciami. Vatti in una casa, scappa. Puttana. Se sei femmina, devi stare a casa. Non va bene frequentare il circolo musica e cultura, perché lì dentro si fanno le orge. Così dite in giro per Cinesi. Ci considerate alieni, ma noi non siamo alieni, siamo giovani, abbiamo degli ideali. Siamo ragazze e ragazzi come tutti gli altri. E noi compagne ci chiamate puttane! Ma per noi questa è libertà! A Giorgiana, se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu vivessi ancora, se non fossi impotente di fronte al tuo assassinio, se la mia penna fosse un'arma vincente, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i fiori che abbiamo regalato la tua coraggiosa vita nella nostra morte diventassero ghirlande della lotta di tutte noi, donne, non sarebbero le parole a cercare d'affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro. Le compagne femministe. In Italia, nel 1976, c'è il boom delle radio libere locali, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale. Nel 1977, a marzo, siamo a Roma, io e Peppino, insieme a un gruppo di compagni, alla grande manifestazione del 12. E a Roma c'è Radio Onda Rossa. E al ritorno l'idea di creare anche noi un'emittente alternativa. Radio Pace di Palermo è confluita a Radio Sud. È disponibile il suo vecchio ripetitore. È Peppino che dice. Lo voglio. Dai, a cambiali, facciamo una sottoscrizione e prendiamo le attrezzature che ci servono. Andiamo al mercatino delle pulci e prendiamo antenna, mixer, piatti e piastra. Dopo un mese, nell'aprile del 77, nasce Radio Out. La nostra voce si sente fino a Castellammare, quando c'è vento. E il vento c'era sempre in quei giorni. Il vento c'era perché c'eravamo noi. La radio trasmetteva da questa casa di Terrasini, a 2 chilometri da Cinesi, per avere una maggiore diffusione sul Golfo, per cercare il collegamento con altre fasce giovanili. Ma anche perché Peppino non si sentiva più sicuro a Cinesi. Il rispetto è misurato. Chi lo porta, l'ave portato. E noi? Noi manchiamo di rispetto a Don Tano Seduto. il capo di Cosa Nostra, che quando passa per la strada le persone si inchinano al suo passaggio. Don Tano, i miei omaggi! Don Tano, come sta la signora? Don Tano, bacio la mano. Nei bar la parola Tano non viene mai pronunciata, nessuno si permette. E noi lo ridicolizziamo, facciamo ridere tutti, perché le persone ci ascoltano. Di nascosto. Come si fa ad attaccare la mafia? Come si fa ad attaccare la mafia? Come si fa? Soltanto sminuendola. Sputtanandola. Facendo vedere che non hai paura. Facendo conoscere a tutti le loro manovre sotterranee. Perché la mafia è grande. È grande. La mafia è una grande montagna di merda. Ma io in questa montagna ci sono nato e cresciuto. Ma la carne. Mio padre, Luigi Impastato. Ma la carne. Mio zio, Don Cesare Manzella. Boom! Fatto saltare in aria. Ma la carne. La mia famiglia. Il mio sangue. Gli amici. Gli amici degli amici. Gli amici degli amici degli amici del gran capo di Mafiopoli, Tano Seduto. Ma zitti. Zitti. Tutti stanno zitti. Te cammini per la strada, ti volti e le persiane si chiudono. Poi ti giri dall'altra parte e quelle si riaprono. Tutti fanno così. Tutti quanti. E quando succede qualche cosa, non vedo, non sento, non... Erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò un lenzuolo bianco alle 5 della sera. Il resto era morte, solo morte, alle 5 della sera. Somma alle 5 della sera, in Mafiopoli si riuniva la commissione edilizia. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale di Mafiopoli. Abbiamo ascoltato l'inno nazionale di Mafiopoli. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo Tano Seduto si aggira come uno spardiero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita. Si aspetta il verdetto. Ed eccoli qua, tutti i grandi capi delle famiglie indiane, tutti qua riuniti. C'è Mano Cosuta, o Cosuta Mano. E poi c'è anche Quarara Calante, eccolo là con il suo pennacchio. E c'è anche l'esploratore, il Bari. E infine, a presiedere questa seduta, in tutta la sua maestosità, c'è il grande capo. I due grandi capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Ancora qualche minuto e il momento culminante. Pochi minuti e verrà effettuato il grande colpo. Fratelli, il momento è grave e solenne. La nostra riserva indiana è stata finalmente aggiudicata. Su quel terreno piazzeremo le nostre tende. Oppure passeremo ai bungalow? Là staremo armati con le nostre armi e nessuno vi metterà più piede. Parola di Tano Seduto, grande capo! E costruiremo tante cose bellissime. Faremo dei seminterrati. 600 metri quadri di seminterrati. Parola di Geronimo Stefanini! cominceremo così. Prima il seminterrato, poi i bungalow e le nostre scuole finalmente potranno... potranno indisturbate le nostre puttane d'alto bordo, eh? E ci sarà un porticciolo bellissimo, già in costruzione, dove approderanno tutte le nostre puttane e da dove le nostre merci potranno partire indisturbate le nostre canoe cariche di eroiche merci. Fratelli, la terra è nostra, fratelli. Eccola là, al di là della torre dell'Orsa Maggiore. Parola di Tano seduto. Si è conclusa la riunione della commissione edilizia di Mafiopoli. Il progetto Z11 è passato. Ma passiamo ad altro. Allora, anche per questa volta è fatta, Don Peppino Percialino, complimenti. Oh, mi pareva chiaro, dopo 2 anni di attesa, mi pareva chiaro. Oh, complimenti vivissimi, quanto sarà alta la nuova casa? Sarà a 4 piani, alta 16 metri, ma forse riusciremo a costruire un 5° piano. Comunque, porteremo l'altezza a 17 metri. Sa com'è? Gli amici... sono sì, sono sempre gli argomenti con i quali il grande capo Tano seduto ha imposto la tua legge. Ma che fa, ti lamenti? No, no, non mi lamento affatto. Vada, vada, vada. A come ti lamenti? Eh sì, bada come ti lamenti, porco cane! La casa di Peppino e la casa di Gaetano Badalamenti sono quasi una di fronte all'altra. Ma io penso che non ci si debba stupire della vicinanza. Tanti in Sicilia, e non solo in Sicilia, abitano a poca distanza da qualche mafioso locale. Quello che però mi stupisce è l'atteggiamento delle persone che considera questa vicinanza come se fosse una cosa normale. Le persiane qui a Cinisi sono chiuse, proprio come un tempo. Meglio poter guardare fuori senza essere visti, eh? Mi siedo qui, davanti alla casa di Peppino. Questi 3 gradini li ricordo pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Sì, perché un giorno Badalamenti manda a chiamare il padre di Peppino, Luigi in passato. O lo fai smettere o lo ammazziamo, gli dice. No, tu non l'ammazzi, mio figlio. Sanno ammazzare. Hanno ammazzare a me e non a mio figlio. Poco tempo dopo Luigi in passato parte, senza dire né dove né cosa va a fare. La mamma, Felicia, disse, se ne andò in America per cercare protezione per il figlio. Ma dopo un paio di mesi che Luigi in passato torna, viene investito da una macchina e muore sul colpo. Davanti alla porta di casa di Peppino, questi 3 gradini sono pieni di gente che è venuta a fare le condoglianze. Amici, parenti mafiosi, e io non l'ho mai visto Peppino così fuori di sé. Con che coraggio venite qua? Qui, davanti alla mia porta! L'avete ammazzato Peppino, voi, mio padre! Vieni via, Peppino! Andatevene via! Lasciali stare, Peppino, andatevene Peppino, via tutti! Vieni via, Peppino! Sono 9 mesi che medito sulla necessità, o forse sull'opportunità, di abbandonare la politica. La gente peggiore l'ho conosciuta tra i personalisti, i cultori del personale e i cosiddetti creativi ricreativi. Un concentrato di individualismo da porcile e di raffinata ipocrisia filistea. A loro preferisco criminali incalliti, ladri, assassini o la canaglia in genere. Devo purtroppo riconoscere di aver dato la mia sensibilità in pasto ai cani. Io ho cercato con tutte le forze che mi restavano in corpo di riprendere quota. incoraggiato anche dalla fiducia e dall'affetto di alcuni compagni, vecchi e nuovi. Non ce l'ho fatta. Bisogna prenderne atto. Il mio sistema nervoso è prossimo al collasso e non vorrei trascorrere i miei giorni in qualche casa di cura. Io ho bisogno, tanto bisogno, di starmene un po' solo, riposarmi, curarmi. Il parto non è stato indolore, ma la decisione è ormai presa. Proclamo pubblicamente il mio fallimento come uomo e come rivoluzionario. Peppino al mare non viene quasi mai. Peppino passa da fasi di cupa disperazione a momenti di esaltazione creativa, con una grande paura di tutto e di tutti e al tempo stesso una voglia incontrollabile di aprirsi e di costruire. Da un mese all'altro, da una settimana all'altra, diventa sempre più difficile riconoscerlo. Per giorni e giorni non parla con nessuno, ma poi torna a gioire, a riproporre, come quando insieme a noi del circolo Musica e Cultura partecipa a un carnevale alternativo, bruciandosi la faccia per fare lo sputafuoco con la bocca piena di petrolio, come quando si fa imbalsamare come una mummia e attraversa il corso di Cinisi, come quando andiamo a pescare viole, le friggiamo sugli scogli e ci ripetiamo che sarebbe bello vivere solo così, come quando va a registrare l'abbaiare del cane dell'onorevole Pantofo per riproporlo nella trasmissione Onda Pazza, come quando occupa Radio Out per protesta contro i creativi, ovvero i ricreativi che non creano un cazzo, come quando Sbronzo si mette a piangere 1° maggio 78, fermamente deciso a chiudere la campagna elettorale per emigrare nei paesi caldi, come quando fa impazzire il maresciallo di Cinisi ridendogli in faccia, come quando dice al fascista paesano che ha strappato i nostri manifesti: inginocchiati e chiedi perdono, come quando ripercorre il suo non compreso amore per Anna, parafrasandone le iniziali Anna: amore non ne avremo. E poi cominciai a sognare anch'io insieme a loro. Poi l'anima d'improvviso prese il volo, da ragazzo spiare ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore. Nubi di fiato rapprese s'addensano negli occhi, in uno stanco scorrere di ombre e ricordi. Una festa, un frusciare di gonne, uno sguardo, due occhi di rugiada, un sorriso, un nome di donna. Amore, amore, amore non ne avremo. Come quando per giorni e giorni non parla con nessuno, ma poi torna a gioire, a riproporre. Non possiamo mettere i cartelloni a terra! Ah, è occupazione di suolo pubblico! Allora noi cartelli ce li mettiamo sui piedi e andiamo per le strade più importanti del paese! Che fa? Si gira. Non lo vuole vedere. Allora noi dai, forza, giriamogli attorno! Talia, che bel paese! Talia! La mostra sul territorio di Cinisi! 1958-1959 inizia il saccheggio del territorio. Esproprio delle terre per l'aeroporto di Punta Raisi, voluto dall'ex sindaco Orlando. Su una mano la terra e sull'altra l'oro, ci dissero. Gli ultimi 100 metri della famigerata via Sino Orsa, che sono costati 2 milioni. Delibera, votata da Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista. La strada è costata complessivamente 40 milioni e la strada Purcaria 20 milioni per un pugno di amici. Alcuni scorci dell'autostrada Punta Raisi-Mazzara, curve incredibili per non mancare di rispetto agli amici. e gli interessi della mafia legati alle cave di Percialino. Le maggioranze comunali degli ultimi anni non se ne sono mai accorte. L'immondezzaio che deturpa e inquina uno degli angoli più belli della nostra montagna è il nostro palazzo comunale, devastato da Pandolfo negli anni 60, ed il restauro della cui facciata sta costando all'ultima giunta quasi 60 milioni di sola asta. Alcune immagini della spiaggia di Magaggiari, deturpata dalle costruzioni incontrollate. Due scorci del molo di Levante di Terrasini, una spesa enorme che ha cancellato la spiaggia preesistente. Intanto, più della metà dei pescatori locali vive e lavora a Viareggio. Progetto Z10, una miserabile speculazione edilizia. Bungalow ed un porticciolo per imbarcazioni di lusso si vorrebbero far passare per sviluppo turistico. Uomini legati alla mafia e alla Democrazia Cristiana non hanno esitato a ricorrere al ricatto e alle minacce. Totale è stata la disponibilità delle forze politiche di maggioranza, completamente assente l'opposizione in consiglio comunale. Queste sono le cave che hanno irrimediabilmente divorato e devastato le nostre montagne, da San Cataldo a Bosco Tagliato. Sono state aperte in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'autostrada. La mafia non sbaglia i suoi conti. Non sono immagini di un lager, ma della costa di Contrada Orsa, ormai devastata dalle lottizzazioni selvagge e dalle recinzioni aeroportuali. Esempi di come si concedono le licenze a cinisi. Villette addossate ad antichissime costruzioni tardoromane. La sovrintendenza ai monumenti non ha mai sovrainteso. Cittadini di Cinisi, andate in direzione contraria, votate pettino impastato, votate Democrazia Proletaria. Cittadini di Cinisi, andate in direzione contraria, votate pettino impastato, votate Democrazia Proletaria. Lo Stato italiano ha avallato la condanna di Aldo Moro. Moro ucciso rafforza questo Stato e il governo ne potrà riscuotere il consenso che ha così cinicamente ricercato. Lo Stato può continuare ad ammazzare i ragazzi che scappano su un'auto rubata, condannare le minorenni all'aborto clandestino, restare indifferente e complice ai 4.000 morti sul lavoro all'anno, condannare alla disoccupazione e alla disperazione le grandi masse giovanili. Andate in direzione contraria, votate pettino impastato, votate Democrazia Proletaria. Cittadini di Cinisi, andate in direzione contraria, votate pettino impastato, votate in un paese anche questo lontano, lontano, lontano, lontano. Mafiopoli, un paese tranquillo, dove c'erano tanti amici, amici, amici. Tutti erano amici, amici di qua, amici di là. E allora in questo paese c'era un consiglio comunale che doveva uscire, ed è arrivato il momento che ci dovevano essere le elezioni in questo paese così tranquillo, tranquillo, mafiopoli. Ebbene, un giorno che furono presentate le liste elettorali, quattro scalmanati che rompono le scatole, le palle, continuamente le palle. È un gruppo cattivo che non si fanno i cazzi propri. Sarebbe stato meglio che rimanevano a casa, al loro posto, non infischiarsi, perché che debbono continuamente occuparsi dei cazzi degli amici. Perché? Degli amici. Degli amici degli amici, degli amici, quattro scalmanati che non si fanno i cazzi propri. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava, adesso brucia. luce a sole. Ci vediamo tra un'ora, Peppino. Dobbiamo preparare il comizio. Ci vediamo tra un'ora. Dov'è Peppino? Non è tornato a casa. Non si sa dove sia. Lui non è tipo da fare ritardi. Mio cugino mi ha detto di restare a casa, di non venire a Cinesi, che sarebbe successo qualcosa di grosso. Dov'è Peppino? Lui non è tipo da fare ritardi. Andiamolo a cercare. Sì, andiamo in paese. Qui non c'è. Andiamo verso l'aeroporto. Qui non c'è. Andiamo verso la ferrovia. Peppino, la strada si stringe. Non si arriva ai binari. Qui sono tutti rovi, in questa strada non ci si passa. Torna indietro. Non è tornato a casa, non si sa dove sia. Mi è sembrato che una macchina lo seguisse. E allora andiamolo a cercare, no? La strada si stringe. Ma stai graffiando tutta la macchina. Qui sono tutti rovi, torna indietro. Peppino, la strada si stringe, andiamolo a cercare da un'altra parte. Qui sono tutti rovi, torna indietro. Peppino, qui sono tutti rovi, torna indietro. Peppino, qui sono tutti rovi, torna indietro. Peppino, dove qui sei? Sono tutti Peppino, rovi, torna indietro. Peppino, qui sono tutti rovi, Peppino, torna indietro. Troppo lunga è la notte. Senza tempo. Infinita. Quella bomba mi ha resa adulta in un momento. Quella è stata la notte più lunga della mia vita. Troppo lunga è stata quella notte, senza tempo. Infinita. Sono tornata qui a Cinesi per pochi giorni. Chissà che cosa volevo trovare qui. Dal finestrino del treno, la montagna, il grande cane addormentato sembra muoversi. La montagna si muove. La montagna si muove solo se siamo noi a muoverci. Dopo l'omicidio è stata perquisita la casa di Peppino e sono state perquisite le case dei suoi compagni, ma non è stata perquisita neanche la casa di un mafioso. L'esplosivo usato era esplosivo di cava, e la cava di Don Peppino Percialino, che come Don Tano era uno dei bersagli di Peppino Impastato, la cava di Percialino era lì a poca distanza dai binari, ma la sua casa, come le case dei mafiosi, non si perquisiscono. Il giorno dopo, nessuna tipografia voleva stampare il manifesto dove i suoi amici, i suoi compagni avevano scritto «L'omicidio ha un nome, mafia». I rilievi sono stati fatti così male che quando i carabinieri se ne vanno, sui binari i compagni trovano i pezzi del suo corpo ancora sparsi ovunque. Le budella che penzolano da alcuni fili elettrici, le agavi spruzzate di sangue. Allora prendono delle buste di plastica e iniziano a raccogliere i pezzettini del suo corpo. Pezzettini. Più di quello non era rimasto. All'interno del casolare abbandonato, che è di fianco ai binari, lì ci sono macchie di sangue. Altre sono su una panchina in pietra e sul pavimento. Ma per i carabinieri, Peppino non è stato ucciso, non è stato ucciso lì. Dicono quello è sangue mestruale. Il necroforo comunale ha consegnato due pietre insanguinate alle forze dell'ordine, ma di quelle pietre non è rimasta nessuna traccia. Il maggiore Subranni sembrava solo interessato a comprovare che anche in Sicilia esisteva un gruppo terrorista di estrema sinistra. Erano gli anni 70 e il cadavere dell'onorevole Moro, ucciso dall'IBR, era stato ritrovato lo stesso giorno. A Peppino hanno messo un candelotto di dinamite in bocca, come se volessero dire che aveva parlato troppo. Nel 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli. Nel 1996 la madre, il fratello e il Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto. In seguito alle dichiarazioni di Salvatore Palazzolo, che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio, assieme al suo vice, Vito Palazzolo, l'inchiesta viene riaperta. La Commissione parlamentare antimafia, nel 2000, approva una relazione, che riconosce delle responsabilità di alcuni rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini. Nel 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto a Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti è morto in carcere il 29 aprile 2004. Alcuni mesi dopo, il 7 dicembre 2004, è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino, che dopo 22 anni ha avuto giustizia. Chi lo immaginava? Lo immaginava che lo ammazzavano. E ce lo diceva, Peppino sta attento, Peppino tu non lo puoi fare, Peppino tu non sai a quale famiglia appartieni, tu sei un ragazzo a 100 anni, tu hai una vita davanti, ti lauri, ti rinforzi con il partito e puoi fare tutto quando tu ti hai rinforzato con la tua età, che ti lauri, ecco, non sopportava l'ingiustizia. Io ero andato qua e mi credi, c'era l'inferno in questa casa, nani guai, non ci posso pensare, quando veniva a buttare fuori un figlio di casa. Polizia, carabinieri, mafiosi e politici erano tutti e tre d'accordo, tutti e tre d'accordo, e non fece niente, e ci mise una bomba di 5 kg. Un colpo così, così propera. Mio figlio che sta a terra, fece un funerale finto, non c'era niente nella cassa, niente, mi crede. A suo figlio lo fece come un terrorista. Mai ci sono male, portatemi a Palermo, ma io mi costituisco di parte civile subito. E mi sono costituita di parte civile. E ho difeso mio figlio. E lo difenderò sempre, con gesto e chiavette.